ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. Si chiamerà Genova San Giorgio e sarà inaugurato lunedì 3 agosto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parliamo dell'ex ponte Morandi, ricostruito dopo il tragico crollo dell'agosto 2018. La capacità del viadotto sul Polcevera è stata messa alla prova con un carico fino a 2.500 tonnellate durante un'intensa settimana di collaudi. Ci sarà novità sui limiti. Sulla nuova infrastruttura la velocità massima sarà di 80 km orari verso Genova e di 70 verso Savona, contro i 90 consentiti sul Morandi. Incentivi per le usate. La conversione in legge del DL Rilancio, oltre a prevedere i contributi per l'acquisto di auto nuove, elettriche, ibride o tradizionali Euro 6, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata e che approfondiremo nel corso della prima parte della puntata di oggi, dà una spinta anche al segmento delle usate. Tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2020, chi deciderà di comprare un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6, rottamando una vettura fino a Euro 3, potrà usufruire di uno sconto fiscale del 60% sui passaggi di proprietà. Fusione FCA e PSA, la joint venture non si concretizzerà prima del 2021, ma nel frattempo è stato reso noto il nome della holding del nuovo gruppo, Stellantis. Per il logo ci sarà invece ancora da aspettare. Stellantis sarà usato solo a livello corporate, mentre i prodotti continueranno ad essere presentati con i brand storici e conosciuti, quindi Fiat, Alfa Romeo, Citroen, Peugeot, Lancia, Abarth e DS. E continuiamo a parlare di incentivi. Come vi anticipavo poco fa, approfondiamo il tema degli incentivi per le auto inseriti all'interno della conversione in legge del DL Rilancio, incentivi importanti in questo momento per un settore che sta soffrendo ovviamente come tutti gli altri settori produttivi anche in questa post-crisi da Covid-19, incentivi dei quali parliamo in compagnia del nostro ospite che è Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, il governo ha sostanzialmente accolto alcune vostre proposte lanciate insieme con le altre associazioni di categoria del settore, soprattutto quelle legate alla parametrazione di questi incentivi alle emissioni di CO2 e quindi una sorta di valvola di sfogo che potesse dare spazio anche al mercato delle motorizzazioni tradizionali e non solo a quello delle full electric o delle ibride, così come era previsto inizialmente. Insomma, siete soddisfatti o no di questi incentivi? Riguardo a quello che è stato inserito come terza fascia di incentivazione e anche l'irrobustimento delle prime due fasce dell'incentivazione già esistente, perché voglio ricordare che esiste un programma cosiddetto Ecobonus già dal marzo 2019, ispirato alla rigorosa neutralità tecnologica, ossia il riferimento degli incentivi con i relativi importi esclusivamente all'emissione di CO2 e non alla tecnologia che viene utilizzata, certo, per raggiungere quelle emissioni. La cosa che ci vede assolutamente soddisfatti è appunto il rispetto di questo sacrosanto principio di neutralità tecnologica, contrariamente ad alcune ipotesi che erano circolate negli ultimi giorni in Parlamento, e quindi il riconoscimento di un ruolo cruciale che le nuove motorizzazioni Euro 6, quindi sia benzina che diesel, non soltanto ibride, hanno nello svecchiamento del parco circolante italiano, che è uno dei più anziani d'Europa, e che con una fascia aggiuntiva, che è quella che va dai 61 ai 110 grammi al chilometro di emissioni di CO2, intercetta finalmente una porzione considerevole del mercato. Parliamo del 47% del mercato solo in questa terza fascia, contro il 3% delle due fasce che erano incentivate sino ad oggi. Quindi complessivamente abbiamo finalmente un provvedimento che purtroppo va in vigore solo dal 1° di agosto, quindi con un effetto non positivo sul mese in corso, sul mese di luglio, però sicuramente che è in grado di fare da volano per una vera ripresa del mercato e, ripeto, per lo svecchiamento del parco circolante, quindi con una doppia valenza sia economica che ecologica. Certo, legata alla sostenibilità, che è poi il principio cardine anche di questo provvedimento. Allora, lei diceva, dal 1 agosto partono questi incentivi, proviamo a spiegarli un po' ai nostri radioascoltatori. Io sono un acquirente, voglio avvicinarmi al mondo dell'auto, voglio acquistare un'auto o cambiare la mia auto e comprarne una nuova. A che tipo di incentivi avrò diritto? Beh, allora, questi nuovi incentivi, quelli che partono il 1 agosto, sono aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti e ben noti, quindi stiamo parlando di di un incremento sulle fasce già incentivate di 2.000 euro a veicolo per quanto riguarda i veicoli che vengono acquistati a fronte della rottamazione di un veicolo più anziano di 10 anni e di 1.000 euro senza questa rottamazione. Ma la cosa veramente nuova è appunto la terza fascia di cui parlavamo prima, che dà diritto a 1.500 euro di incentivo a fronte di rottamazione e 750 euro senza la rottamazione. Attenzione, a fronte di questi incentivi che sono fondi statali, c'è anche l'obbligo da parte del venditore, quindi diciamo il concessionario, di mettere sul tavolo altri 2.000 euro di sconto rispetto al prezzo di listino, quindi stiamo parlando di un cumulato che può raggiungere anche i 10.000 euro alla fine, stiamo parlando di insomma, diciamo di importi che riescono a modificare sensibilmente la propensione all'acquisto di un consumatore, nonostante i tempi di crisi. Ovviamente questi incentivi valgono indipendentemente dalla forma di acquisto, quindi sia essa finanziamento, contante, insomma. Quindi sì, sono sempre validi, quindi chiunque si voglia avvicinare in questo momento a questo mercato, chiunque voglia cambiare l'auto, sappia che dal 1 agosto ci sono appunto queste nuove possibilità, questi incentivi. Tra l'altro ho notato che negli ultimi giorni si è incrementata in modo sensibile la campagna di comunicazione delle case costruttrici, quasi tutte sostanzialmente stanno raddoppiando o triplicando addirittura questi incentivi, quindi segno che è un mercato che ha voglia di reagire in questo momento. Il mercato ha assolutamente voglia di reagire, è un mercato che è stato falcidiato dalla crisi del Covid, non dimentichiamo 2 mesi di lockdown con la chiusura totale delle reti distributive, un semestre che abbiamo chiuso con un meno 46% nel comparto vetture, meno 36% nei veicoli commerciali, dimezzati gli industriali, i rimorchiati, gli autobus, quindi insomma abbiamo delle ferite sanguinanti. Naturalmente i consumatori, ma anche le stesse aziende, di fronte a una situazione economica generale che è drammatica, quest'anno le previsioni più ottimistiche parlano di meno 8, meno 9% sul PIL, ma si arriva anche a meno 14 nella forchetta diciamo dell'ottimismo. È chiaro che è un mercato che ha bisogno di grossi stimoli per recuperare un minimo di abbrivio. Ci sono state tante misure che hanno sostenuto gli operatori, il sostegno alla liquidità, il sostegno all'occupazione con la cassa integrazione, ma ricordiamoci che un mercato senza la domanda non va da nessuna parte. Va detta una cosa, quello di cui stiamo parlando purtroppo al momento si esaurisce il 31 di dicembre, ma il mondo non finisce e purtroppo anche la crisi non finirà il 31 di dicembre, quindi è assolutamente fondamentale passare adesso ad una fase 2, magari approfittando anche di questi fondi europei. Ulteriori fondi europei, sì, quali, su cui adesso si scatenerà una guerra senza tregua sicuramente. Quindi. Beh, noi ci auguriamo che, considerato che ad oggi l'automotive ha avuto qualcosa come 150 milioni su 55 miliardi, ci auguriamo che invece venga riconosciuto il ruolo chiave di questo settore che pesa, non lo dimentichiamo, pesa il 10% del gettito fiscale in Italia. Quindi questo crollo del mercato è anche un enorme diciamo voragine nei conti dello Stato, parliamo di vari miliardi soltanto di IVA persa in questi mesi. Beh, ci auguriamo che su 209 miliardi dello European Recovery Fund si trovi il modo di dare un sostegno non episodico e non con misure tampone, ma strutturale. Ci sono delle cose, per esempio una fra tutte l'auto aziendale, la fiscalità dell'auto aziendale è drammaticamente penalizzante nel panorama anche rispetto agli altri appunto paesi europei. Assolutamente. Sì, l'abbiamo ribadito più volte anche in trasmissione. Però a questo punto, se con i fondi europei, che hanno peraltro un orizzonte quinquennale, non si riesce a fare una misura di respiro almeno pluriennale, allora sarebbe una enorme occasione mancata. Ovviamente la priorità assoluta è il rifinanziamento di questa misura appena approvata, perché non dimentichiamo che è stato messo una specie di gettone da 50 milioni, con i quali non si può fare nulla, certamente non si arriva alla fine dell'anno, forse neanche alla fine del mese di agosto, ma siamo su questo siamo e dobbiamo essere assolutamente ottimisti, quindi dando per scontato che gli ultimi 5 mesi dell'anno effettivamente verranno supportati da una dotazione finanziaria adeguata, bisogna già da oggi, pancia a terra, lavorare per il futuro, per il 2021 e per gli anni a seguire. Certo. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Andrea Cardinali, direttore generale di UNRAE, l'associazione che rappresenta le case costruttrici estere in Italia. E a proposito di case costruttrici estere, nella seconda parte approfondiremo una di queste, Volkswagen, con quelli che sono i nuovi prodotti in arrivo in queste settimane nelle concessionarie. Tutto questo fra pochi minuti nella seconda parte di Strade e Motori. Restate con noi. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, questo spazio è dedicato a Volkswagen. Cercheremo di capire quali sono le novità del brand, soprattutto come ha affrontato questo brand la difficile situazione. Parleremo ovviamente, lo abbiamo già fatto nella prima parte, ma continueremo a farlo anche adesso, degli incentivi e di quello che sarà l'impatto di questi incentivi sul mondo dell'auto. Tutto questo in compagnia di Andrea Alessi, che è la direttore di Volkswagen Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo un po' dal passato. Siamo ormai entrati nella fase 3. Volkswagen, tra l'altro, ha riaperto tutte le fabbriche, notizia di pochissimi giorni fa. Veniamo da un periodo sicuramente difficile. Come ha affrontato Volkswagen questo periodo? Ma certamente la crisi indotta dal coronavirus diciamo, può essere considerata, come diceva lei, suddividibile in tre fasi. La prima fase è stata quella dello shock, quella della chiusura totale, quella in cui abbiamo dovuto mettere in sicurezza un sistema economico che improvvisamente si è trovato ad azzerare completamente i propri ricavi. Questo chiaramente ha coinvolto sia noi come distributore per il mercato italiano, ma anche e soprattutto direi la nostra rete dei concessionari. Quindi in quella fase abbiamo dovuto orientarci molto velocemente per cercare di ridurre i costi, gestire anche il lavoro a distanza, visto che né noi né il personale delle nostre concessionarie certo poteva recarsi in sede. Quindi abbiamo gestito quella fase di emergenza assoluta e lo abbiamo fatto cercando di venire incontro sia alle esigenze dei nostri concessionari che avevano appunto questa crisi di ricavi, ma anche dei nostri clienti, perché non dimentichiamo che molti clienti si sono trovati nell'impossibilità di andare a ritirare una propria vettura in concessionaria, magari avevano già avviato il finanziamento. Certo. Sono casi che abbiamo dovuto gestire. Abbiamo avuto decine di segnalazioni su questo fronte, purtroppo, di utenti che avevano addirittura già completamente saldato, quindi neanche con il finanziamento, che dovevano solo ritirare l'auto e che purtroppo erano impossibilitati, ovviamente non per causa vostra, appunto, a fare ciò. E questa era stata la fase 1 che abbiamo sofferto un po' tutti, voglio dire un po' anche tutto il settore dell'automotive. Abbiamo superato questa fase, notizia di qualche giorno fa, lo dicevo prima, Volkswagen ha riaperto tutti i suoi stabilimenti nel mondo, quindi siamo ritornati alla piena produttività e tra l'altro anche con la buona, tra virgolette, notizia degli incentivi che sono stati inseriti nella conversione in legge del rilancio. Che tipo di impatto avranno sul mercato secondo lei? Ma infatti adesso siamo pienamente nella fase 3, sostenuti anche da questa decisione del governo italiano di avviare una fase di incentivazione, e questo ci consentirà, crediamo, di tornare nei prossimi mesi a un livello di vendite diciamo equivalente a quello degli scorsi anni. Posso dare alcune delle previsioni che il nostro l'associazione dei costruttori, l'UNRAE, ha rilasciato. Noi prima degli incentivi ritenevamo che il mercato italiano si sarebbe assestato intorno al 1.3 milioni, ribadisco la previsione ufficiale diciamo dell'UNRAE, quindi un 30% in meno rispetto allo scorso anno e alle attese che c'erano per quest'anno. Adesso sempre l'UNRAE RAI stima che l'impatto di questi contributi governativi possa alzare il mercato di circa 150.000 unità nei prossimi 5 mesi, quindi un mercato che dovrebbe assestarsi a 1.450.000. Siamo ancora lontani dal 1.900.000 dello scorso anno, però significa che i singoli mesi da agosto a dicembre dovrebbero muoversi in maniera equivalente a quello dell'anno scorso, quindi significa tornare ad avere una situazione quasi di normalità a partire appunto dal mese di agosto. Questa è la nostra attesa, questo è quello per cui ci stiamo preparando e insomma auguriamoci che certo Siano delle previsioni corrette. Ecco, al di là delle stime ufficiali fatte da un RAE e che tra l'altro sono state ribadite anche nel corso della prima parte della trasmissione dallo stesso direttore generale Andrea Cardinali, qual è il vostro sentiment, come direbbe qualcuno, la vostra percezione sul mercato italiano? Ma la percezione è di parziale ottimismo, probabilmente dovuto anche al fatto che abbiamo vissuto lo shock delle fasi 1 e della fase 2, quindi fase 1 praticamente a zero, fase 2 un mercato che si è mosso nei primi mesi della riapertura intorno al 50-60% del normale. Oggi vediamo che anche prima del lancio di questi incentivi comunque c'è un cauto ottimismo, nel senso che comunque la clientela sta tornando in concessionaria, devo dire sia sulla parte commerciale della vendita del nuovo, ma anche e soprattutto su quella del service, quindi dell'assistenza tecnica. Le officine in questo momento sono tornate a un livello, almeno le nostre officine sono tornate a un livello di flusso di assistenza equivalente a quella degli anni precedenti. Ripeto, abbiamo imparato a gestire il distanziamento e le problematiche indotte dal coronavirus, e c'è un certo ottimismo che una ripresa effettivamente è nei fatti, ecco. Certo, lei parlava di presente e di futuro, e allora cerchiamo di analizzare questo presente con i prodotti che in questo momento Volkswagen sta proponendo, a cominciare dalla ID3, la compatta 100% elettrica, che è basata sul nuovo pianale dedicato, l'MEB. Che tipo di aspettative ci sono su quest'auto, ma soprattutto quali sono le sue caratteristiche? Ecco, questa è un'auto che va oltre il concetto della presentazione di una semplice auto, perché ID3 è per noi una vettura, se vogliamo, epocale. Abbiamo detto a più riprese che noi pensiamo che ID3 possa rappresentare per il mercato italiano e per il nostro marchio quello che nel passato hanno rappresentato in diverse epoche il Maggiolino e poi la Golf. Quindi riteniamo che ID3 sia il tassello fondante, diciamo la pietra miliare su cui Volkswagen imposterà la migrazione verso la mobilità elettrica per tutti. E così come appunto con Maggiolino abbiamo lanciato la mobilità per tutti, e poi con Golf l'abbiamo portata a un livello più elevato rendendo possibile la tecnologia e la sicurezza accessibili a tutti, noi riteniamo che ID3 possa svolgere lo stesso ruolo rendendo accessibile per le grandi masse anche la mobilità esclusivamente elettrica, che noi pensiamo rappresenterà il futuro assoluto del mondo dell'auto. E quindi un tassello della nostra strategia della decarbonizzazione assoluta. Quindi decarbonizzazione vuol dire che Volkswagen si sta preparando a avere un sistema di produzione e commercializzazione che emetta zero CO2 e ovviamente produca delle vetture che anche loro abbiano un livello di emissioni di CO2 zero. ID3 è la prima vettura che è in grado di svolgere questo ruolo, quindi viene prodotta con un bilancio di emissioni di CO2 zero ed emette zero CO2 al punto di utilizzo. È una vettura che abbiamo in questi giorni cominciato a commercializzare, sono usciti i primi listini, è una vettura che in questa fase stiamo presentando in 7 pacchetti di configurazione precostituiti, proprio per rendere il più possibile semplice per il cliente scegliere. È una vettura che avrà 3 diverse batterie, cioè 3 diverse autonomie, di conseguenza anche 3 diversi livelli di prezzo e quindi anche 3 diversi allestimenti. Inizialmente partiamo con 7 configurazioni che partono con da un prezzo di 38.900 euro. E la settima di queste configurazioni è per una vettura a elevatissima autonomia che arriva a svolgere ad avere un'autonomia superiore intorno ai 550 chilometri. Quindi molto più dell'autonomia urbana a cui siamo ovviamente abituati con le macchine di taglia un po' più piccola. Ecco, il full electric è sicuramente, lo ha ribadito lei, il futuro dell'automobile. Noi dobbiamo però confrontarci anche con il presente, che è un presente in cui le motorizzazioni tradizionali ancora la fanno da padrona e quindi hanno bisogno di essere in qualche modo ancora supportate e sostenute dalle case costruttrici. Su questo fronte, qual è la vostra offerta? Citavo tra le vetture pietre miliari della storia della motorizzazione mondiale e del marchio la Golf, e non dimentichiamo che proprio in questi mesi del lockdown, del problema del coronavirus, abbiamo lanciato l'ottava generazione di Golf, che quindi adesso comincia a essere in circolazione sulle strade, che riteniamo che grazie alle sue caratteristiche di innovazione tecnica e di modernità è la vettura più connessa, più digitale della storia di Volkswagen, ma è anche una vettura dotata di una motorizzazione, di due in realtà motorizzazioni ibride, che quindi la rendono assolutamente idonea alle necessità del mercato di oggi. Ha anche una versione a metano che la rende particolarmente economica sul mercato italiano, quindi riteniamo che Golf sia assolutamente continuerà a essere per ancora diversi anni un nostro cavallo di battaglia, un nostro generatore di business e di interesse verso la clientela. Ma poi non dimentichiamo la nostra vastissima offerta nel campo dei SUV crossover, che è l'offerta più ampia che esiste oggi sul mercato, perché andiamo dalla T-Cross, quindi una vettura cittadina, per un uso prevalentemente cittadino, ma non esclusivamente cittadino, una vettura intorno ai 4,10 m di lunghezza con un 1000 di turbo benzina come motorizzazione d'attacco, ma poi passiamo attraverso la T-Roc, passiamo attraverso la Tiguan nelle due versioni, passo normale e versione lunga all space a 7 posti, per arrivare poi alla parte executive con il Touareg. Quindi abbiamo un'offerta di 5 SUV che sono quelli che oggi il mercato italiano richiede con maggiore intensità, e la nostra offerta è assolutamente in linea con le necessità del mercato italiano. Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Ringraziamo e salutiamo il nostro ultimo ospite Andrea Alessi, direttore di Volkswagen Italia, che ci ha anche presentato le ultime novità di prodotto della casa. Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.